Zolt. Fulminati in azienda. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, ho visto che tutti voi, grazie al progetto The Pink Life, per trovare un equilibrio tra vita privata e professionale, avete espresso l'esigenza, direi il fabbisogno, di ripensare a questo equilibrio. Sempre bravo col microfono. E visto anche che sembra che lavoriate molto, secondo alcuni di voi addirittura troppo, e che d'altra parte però per il sottoscritto siete appena vicini alla sufficienza. Ecco, Mose sta incazzato. Guarda, allora, i casi sono due. O cominciate a pedalare, ma sul serio, che a star qui 12 ore, ma lavorare i due dovreste vergognarvi, oppure reintroduciamo il cottimo e vi pago a pezzi a pratiche fatte. Scherzavo, colleghi, scherzavo, era una battuta di sul pezzo. Voi avete perso per strada l'umorismo. Che burlone, Marco. Allora, la faccio breve perché il tempo è denaro. Grazie al sottoscritto e all'insistenza dell'ufficio risorse umane, farete tutti un bel corso sulla self-efficacy col mitico coach Donald Jump. Una tragedia se aggiunta. Traduco per essere chiaro. Ragazzi, signori, colleghi, è un periodo difficile e i casi sono due: o vi fermate qui più ore, oppure mi rendete di più nelle ore che già fate. Oh, è sempre la stessa cosa. Sia in un caso che nell'altro, bisogna farsi il mazzo. Allora, siete caldi, ragazzi? Sì. Più forte, tutti insieme. Sì. Molto molto bene, oggi siamo qui per parlare di self-efficacy, ossia dell'arte di essere più efficaci e più efficienti. Questa importantissima skill per il manager moderno. Questo proprio in italiano non ce la può fare. Un manager organizzato ed efficiente, manager che conosce le 4 P della self-efficacy. Ripetete con me tutti insieme. Una P, pianificare. Pianificare. 2 P, programmare. Programmare. 3 P, prevedere. Prevedere. 4 P, pregare. Pregare. Scusami, Donald, non te seguo più a sto punto. Per esempio, tu centri. Ecco, sapevo in me tirare in me. Dimmi, Donald, dimmi. Se tu sei molto preso da molto lavoro, tu cosa fare? Chiamo Bracco e io scarico. Io ammollo. Ottimo, diciamo. Ottimo, ma questa è delega. E se Pacco non c'è, come ti organizzi? Se Pacco non c'è, mi parte il bestemmione, poi me l'assegno e mi metto a lavorare. Giro, vedo gente, faccio cosa, che devo fare, Donald? Giorno, dottor, la disturbo? Sì, Pacco. Ecco, la scusi, mi volevi parlare del mio carico di lavoro, no? Che va ben che sono stecista. Mi sta a disturbare, Pacco, me lo hai chiesto e ti ho risposto. Non vedi che mi sta a interrompere? No, la mi scusi, la sa, ma l'ho visto l'assentaco sulla scrivania, con io ci sarai, io pensavo che non stava lavorando così tanto, ecco. No, perché mise da stamattina alle 5 che lavoro. Ecco. Allora, Pacco, mo te spiego, Me sto a organizzare, Tu hai conosce 4P da Seficasì? Della cosa? Lascia aperta. Allora, mo te lo dico. Per lavorare bene ci sono 4 P. Pianificare. Programmare. Prevedere. Sì. E pregare. È chiaro? E pregar chi, la mi scusi? Ma non importa, Pacco. Allora, Donald le ha messe in quest'ordine perché è un miscredente americano. Tu sei credente, credi in qualcosa? Ma cosa c'entra la fede con i carichi del lavoro, ecco, dottor? Io invece sì, so credente. Ho preso l'ultima P e l'ho messa lì per prima. E quindi? E quindi sto a pregare. Sto a pregare che te sbrighi, così te giro il secondo carico dei progetti. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3z2o 1t.